Allora lei chi è? Cazzo. Chi è? Cazzo. Miss Calamita, faccia pulita, ha un profumo, gusto batida, cosmopolita, in moto, in penna, attacca la spina, donna moderna. Nei capelli ha una matita, legge la linea della vita, incrocia le dita, se mi passa di fianco divento carne trita. La mattina è carica come una pila, col Blackberry salta la fila, con il sole 24 ore, la domenica va alla partita. Che complicazione come una pepita, lei fissa negli occhi la mia ragazza, tutta altera in giacca e cravatta, deperita, peperina, ma con il capo una margherita, gli fa piedino all'ora di pranzo, col tagliere il seno rifatto. Attenta, io giro con lo skateboard, se tu non sei contenta, puoi fare anche i bagagli e cambiare la tua vita. Lei dice alla sua amica, sono Miss Calamita, con le Marlboro Compass, sono troppo sexy. Disbetica, polemica nell'ufficio, schizofrenica, pesa come una palla medica, fotogenica, tutto fare, patetica da strozzare, pensa solo al parrucchiere, poi su eBay si va a comprare un beauty case orientale. Che complicazione con i Ray-Ban, va da Zara, suo marito lava il suo chihuahua, lei con le amiche è una zanzara, cerca un macio 100 rose, un amante da overdose che abbia la barca a vela, guarda le telenovela e dice: attento, io giro con le All-Star, se tu non sei contento, puoi fare anche i bagagli e cambiare la tua vita. Sono Miss Calamita, Miss Cala Calamita, con la mia Mastercard, sono troppo sexy. La guardano tutti belli e brutti, lei fa un sesso della Madonna, lascia asciutti i portafogli quando si mette la minigonna, con la macchina all'autolavaggio, dentro al pub del caccazzeggio, manda in transi il cameriere, in fissa paura sul sedere, pure alla pelle a buccia d'arancia, con la bull dell'acqua calda sulla pancia, non lascia la mancia, mi dà un bacio sulla guancia. Che complicazione strana, la mia ragazza è entrata, salta come una rana, addosso e poi la sbrana. Attenta, io giro con lo skateboard, se tu non sei contenta, puoi fare anche i bagagli e cambiare la tua vita. Lei dice alla sua amica, sono Miss Calamita, con le Marlboro Compass, sono troppo sexy. Attento, io giro con le All-Star, se tu non sei contento, puoi fare anche i bagagli e cambiare la tua vita. Sono Miss Calamita, Miss Cala Calamita, con la mia Mastercard, sono troppo sexy. E non ce la faccio più.